occhi là, sembra che l'alba l'hai dipinta tu, e nel buio una lucciola, non è giusto, non luccica più. Io l'ho capito dove vuoi andare, a barare come un animale, con la rabbia dentro l'anima che rimbomba. Sciolgo i tuoi capelli al sole, forse sanno ancora un po' di mare, anche se non mi ricordo quante navi e quanto sale. Cantavamo come due cicale, anche se io ti conosco appena. Quando mi guardi sembri mio papà, con gli occhi stanchi non mi vedi più. E no che non voglio smettere, c'è un altro ricordo da mandare giù. Ma non l'ho capito dove voglio andare,